Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati a Insargante il traghettatore per questa ennesima puntata di Ferry Boat. Questa volta parliamo, abbiamo sempre affrontato il tema della responsabilità sociale sotto un aspetto per lo più volontaristico, cioè l'azienda che sua sponte ritiene di dover, poter e si impegna ad una ricaduta sociale in termini più vasti possibili sul territorio e sul circondario. In realtà esistono anche però dei criteri a cui fare riferimento, anche per evitare che i furbetti possano lasciare apparire sostanze che poi non ci sono, e lo affronteremo anche nelle prossime puntate questo tema. Uno degli strumenti non intimidatori, non impegnativi, voglio dire, sul piano burocratico o formale, ma snello, veloce, ma che ha una discreta consistenza invece dal punto di vista della credibilità, è il bilancio sociale. Bilancio sociale fai da te, dai Giovani Industriali di Bologna, un format online dedicato alle piccole imprese responsabili. Rigidi, forse anche un po' miopi. I bilanci tradizionali non tengono conto di valori di impresa che sul mercato pesano e come. Competenze, capitale intellettuale, reputazione, immagine. Ecco come valutare la qualità sociale di un'impresa. Ecco, avete visto già dal sommario di che cosa stiamo parlando, un piccolo strumento ma dalle grandi ambizioni, e soprattutto uno strumento, ripeto, informale, che l'azienda volontariamente applica e che ha una visione del ruolo dell'impresa a 360 gradi. Vediamo di capire che cos'è un bilancio sociale anche attraverso un'esperienza particolare, speciale, che vi spieghiamo con un'altra scheda. La realizzazione del bilancio sociale è un processo importante per le aziende che puntano sulla responsabilità sociale, ma c'è un problema. Costa troppo e soprattutto le piccole imprese non se lo possono permettere. E allora? Ecco il bilancio sociale fai da te. I Giovani Industriali di Bologna e il loro presidente Andrea Paladini hanno elaborato un format disponibile online per applicare alle piccole aziende del territorio il bilancio sociale e misurare grandezze che non sono economiche, ma hanno a che fare con i valori etici. Per un bilancio sociale un'impresa deve sostenere un costo elevato, almeno 20.000 euro. Uno strumento quindi poco praticabile per le piccole della provincia di Bologna, che annovera solo pochi grandi gruppi con più di 500 dipendenti. È nato così questo format, utilizzabile impegnando solo poche giornate di lavoro. Andrea Paladini, presidente della Giovani Industriali di Bologna, è con noi in linea. Salve, presidente. Buongiorno. Ecco, l'idea di portare il bilancio sociale alla fruizione delle piccole e medie imprese è un'idea che balla, diciamo, da qualche anno, ed è sempre stato molto difficile riuscire a definirla. Lei invece è andata dritta alla meta, addirittura un format online. Ecco, come è strutturato questo format, che deve essere evidentemente adattabile a qualsiasi tipo di impresa? Ma guardi, sostanzialmente il format nasce dall'esigenza di voler misurare appunto l'impatto economico e sociale delle piccole e medie imprese sul territorio. Noi abbiamo verificato quello che era la realtà bolognese, che penso che possa essere una realtà imprenditoriale che può essere lo specchio della realtà economica nazionale, e abbiamo visto che le piccole imprese sono predominanti. Queste piccole imprese sappiamo tutti che hanno benissimo un impatto sul territorio, e perché non misurarlo questo impatto sociale? Ecco, ricordiamo Presidente, a chi ci ascolta, che il bilancio sociale in realtà è una forma di rendicontazione, cioè è una pubblicazione che parla del fatturato, della continuità occupazionale, della formazione, di tutti quelli che sono le ricadute di un'attività di un'impresa all'interno, all'esterno, sul territorio, sui dipendenti, addirittura sulle famiglie. Quindi è un ambizioso come obiettivo quello di formattare in qualche modo un bilancio sociale. è assolutamente così. L'ambizione è quello di creare uno strumento, io lo definisco tailor made, per le piccole imprese. Noi sappiamo, tailor made quindi vuol dire, scusi, fatto a mano, su misura, no? Tailor made, sì, famoso abito cucito addosso, no? Per cui di cucire, di creare uno strumento per le piccole imprese. Sappiamo che questo bilancio sociale, che è uno strumento di rendicontazione di grandezze non economiche, nasce prevalentemente per i grandi gruppi industriali globalizzati, penso alla Nestlé, tanto per fare un esempio. E purtroppo spesso questo strumento viene utilizzato come strumento di marketing, cioè una sorta di giustificazione, un metodo che possono avere certi grandi gruppi per lavarsi la coscienza di fronte alla comunità. E infatti ha avuto una grande diffusione, perché il bilancio sociale sta praticamente entrando in tutte le grandi imprese. Il rischio, che lei dice il rischio, però, è che si risolva il tutto in un'operazione così di maquillage dell'azienda. Bravissimo, esattamente. Invece quello che noi abbiamo fatto come giovani imprenditori di Industria Bologna è di creare un sistema di rendicontazione per le piccole imprese che ne possa misurare l'impatto sociale, ovvero che possa far emergere alcune grandezze che dal bilancio tradizionale, il bilancio che tutte le aziende per motivi di legge devono redigere ogni anno, non escono. Parlando ad esempio di occupazione, il nostro bilancio tradizionale ci dice quanto spendiamo per in salari e stipendi dei nostri collaboratori. Il bilancio sociale che noi proponiamo fa emergere altri tipi di grandezza. Faccio un esempio: le etnie. Noi possiamo misurare quanti collaboratori sono italiani, sono comunitari, sono extracomunitari, per cui avere già un dato, se in maniera un po' presuntuosa volessimo estenderlo a tutta la provincia o a tutta la nazione, addirittura sapere quanta integrazione nel lavoro c'è grazie alle piccole imprese. Come diceva lei prima, la continuità di rapporto vuole dire quanti dei miei collaboratori sono con me e da quanti anni, per cui è evidente che in un'azienda dove i rapporti di lavoro sono saldi e duraturi, un'azienda dove si lavora bene, dove i rapporti sociali tra l'imprenditore e i collaboratori funzionano, per cui è un'impresa dove si lavora, ecco, in armonia. Chi ci ascolta, Presidente, magari si chiede rendicontazione, d'accordo, abbiamo capito, ma a chi? No? A chi rendicontare? E qui ci sono i famosi portatori di interesse, così? I cosiddetti stakeholder. Ma la rendicontazione io penso che sia un concetto che vada guardato in maniera estesa. Io penso che oggi per fare imprese in maniera responsabile, che vuol dire anche profittevole, attenzione, bisogna aprire un pochino di più le nostre imprese, per cui gli stakeholder possono essere dagli istituti di credito con cui noi oggi ci confrontiamo anche con delle tensioni, ma possono essere i nostri fornitori, i nostri clienti, i nostri collaboratori. È uno strumento per far vedere che la tua impresa non è solamente un agglomerato di numeri, di un bilancio economico, ma è anche un'esperienza, no? È un modo di fare imprenditoria, magari con amore, magari guardando le cose da un altro punto di vista, non quello solo prettamente economico. E questo modo di fare impresa ha delle ricadute positive sul territorio, che vuol dire sulle persone che collaborano con te direttamente dentro l'impresa, ma anche indirettamente, penso alle imprese della filiera. Ecco, al punto tale questo bilancio sociale, che peraltro ribadiamo con la formula che propone il Presidente Paladini, addirittura gratuito, cioè col format pochi giorni di lavoro, quindi sono costi minimi, si può realizzare, giusto? Assolutamente. Ecco, quello che è talmente tanto vero, che il bilancio sociale è uno strumento significativo e anche innovativo, che c'è chi immagina che possa, per esempio, sostituire in qualche modo nel tempo, ma forse anche non così lontano, il bilancio tradizionale. Sentiamo per esempio che cosa pensa a questo proposito Stefano Zamagni, che un illustre economista dell'Università di Bologna, uno dei massimi esperti del mondo del no profit. I sistemi di contabilità, sia for profit che non profit, sono tali che ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, solamente ciò cui può essere attribuito un prezzo di mercato è oggetto di rilevazione. Di qui la palese contraddizione pragmatica. Per un verso, si chiede alle diverse organizzazioni d'impresa di farsi carico degli interessi legittimi delle varie classi di portatori di interessi. È il senso della responsabilità sociale d'impresa. Per l'altro, si continua a giudicare la performance aziendale sulla base di un sistema di calcolo che esclude, per principio, tutti quegli elementi che valgono a rendere la vita dentro le organizzazioni d'impresa più civile e più felicitante. Ecco allora la sfida che occorre saper raccogliere: adoperarsi per arrivare quanto prima ad un sistema di contabilità non alternativo, ma integrativo di quello esistente. Professor Stefano Zamagni, ordinario di economia, Università di Bologna. Chi segue Ferribotto lo ha sentito. Più volte Zamagni è uno dei nostri dei professori che contribuiscono a rendere più credibile Ferribotto. Come avete sentito, quindi, in ballo non c'è solo una modalità di comunicazione, una sottolineatura di un modo, di un metodo di fare impresa, ma probabilmente con il bilancio sociale, se volessimo sognare ad occhi aperti, immaginassimo che diventasse da un momento all'altro, da un giorno all'altro, l'unico sistema di rendicontazione, ci ritroveremmo ad avere tante aziende che comunque, volenti o nolenti, dovrebbero misurarsi col territorio e con i famosi portatori di interesse su un piano di valori, di socialità, di business sempre, ma nel rispetto dei valori della civiltà. Sarebbe un bel salto avanti, vero Presidente? Assolutamente, io devo dire che poi le parole di Zamagni sono sempre molto esaustive. Noi a Bologna lo conosciamo bene, devo dire che molti dei miei colleghi hanno avuto anche la fortuna di essere suoi studenti all'università, una persona di grande autorevolezza, e devo dire che le sue parole quando parlano di sistema integrativo, non alternativo, sono corrette. È chiaro che l'economia gira su dei valori, su delle grandezze ben definite, però oggi è anche importante far vedere che non è solo profitto, non è solo business, ma anzi si può fare profitto e business creando anche qualcosa di positivo, delle ricadute positive. Noi tra l'altro sul nostro territorio emiliano-romagnolo abbiamo una realtà meravigliosa, che è quella delle realtà cooperative, che crea ricchezza, posti di lavoro, che per anni hanno fatto giustamente questo tipo di approccio sull'impatto sociale, sull'impatto sul territorio, l'hanno fatto loro. La loro attività prevalente. Ferribot, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco, insergante traghettatore, stavamo parlando con Paladini, presidente dei Giovani Industriali di Bologna, di Bilancio Sociale Online. Chiudiamo rapidamente perché abbiamo altri ospiti. Presidente, lei stava rievocando il valore storico, culturale e sociale dell'esperienza delle cooperative. Sì, assolutamente. Quello che ci tenevo a ribadire è che noi riteniamo che certi valori sociali e di impatto positivo sul territorio non sono solo del mondo cooperativo, che sono una ricchezza e una risorsa del territorio, ma sono anche dei piccoli imprenditori, dei medi imprenditori che caratterizzano la nostra regione e la nostra nazione. Per questo abbiamo voluto ribadire certi valori in questo strumento di rendicontazione. Sul vostro sito, fra l'altro, si può anche andare a guardare chi sono, per esempio, le aziende che hanno attivato questo, le piccole aziende in questo caso che hanno attivato il meccanismo, fra i quali ci ha colpito ovviamente, perché ci siamo chiesti che cosa c'è in un bilancio di un ospedale, ancorché privato, che non sia responsabilità sociale, e invece l'ospedale Santa Viola di Bologna ha ritenuto di fare un bilancio sociale, e Averardo Orta, che è il presidente, qui con noi. Salve presidente. Salve. Chiediamo proprio a lei da subito di toglierci questa curiosità. C'era bisogno di un bilancio sociale? L'ospedale non è già di per sé un'impresa sociale? Certamente lo è per la caratteristica del suo servizio, però è tutto concentrato a risolvere i problemi di salute del paziente. Non avevamo potuto analizzare tutti gli aspetti di contorno che riguardano l'impatto di una struttura comunque imprenditoriale come quella sul territorio in cui insiste, che sono invece notevolissimi. Ecco, rispetto a un bilancio, rispetto ad un ospedale privato tradizionale, chiamiamo così, quali sono i vantaggi dell'aver applicato un bilancio sociale? Dove siete più attenti di altri? Ovviamente il nostro obiettivo continua a essere quello di fornire il miglior livello di cure per i pazienti che si ricoverano. Questo va da sé, certo. È ovvio. Certo. Per migliorarlo, il bilancio sociale ci ha consentito di renderci conto di alcune dinamiche delle quali non avevamo preso coscienza prima. Le cito: l'integrazione multietnica. La caratteristica che questo tipo di strutture ha di rompere le barriere razziali che comunque esistono all'integrazione e migliorare un modello, proporre un modello di società multietnica vincente, che è quello che abbiamo potuto misurare, e su questo abbiamo sviluppato un progetto di integrazione di personale extracomunitario che ha aiutato anche a migliorare la qualità delle cure. Chiaro, quindi tutto quello che c'è attorno al rapporto diretto paziente-medico, attorno al rapporto diretto paziente-medico si misurano tanti altri aspetti culturali, di sensibilità sociali o in questo caso addirittura quasi razziali, che giustamente un ospedale tradizionale potrebbe anche non tenere nella dovuta considerazione. Altri aspetti che contraddistinguono il vostro bilancio sociale? Noi abbiamo voluto misurare l'impatto economico della struttura ospedaliera, della nostra in particolare, nel suo quartiere. Ci siamo accorti che, considerando anche appunto spazi ristretti come il quartiere o il comune, l'impatto di una struttura ospedaliera è enorme, perché l'indotto, chiamiamolo così, del giro di visitatori o parenti che si fermano e utilizzano i posti dei parcheggi a pagamento limitrofi, acquistano il giornale nell'edicola, si fanno mandare. Economia del territorio, anche quella, giustamente. Sono fenomeni che vengono considerati marginali. Misurandoli ci si accorge che invece costituiscono un elemento virtuoso importante. Grazie Presidente, grazie di essere stato con noi. Grazie mille. Ecco, a proposito dell'eccellenza, non possiamo non chiamare in causa l'Accademia, l'Università, perché sono molte università che si occupano di studiare e di accompagnare lo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, fra cui il professor Mario Mazzoleni, che è con noi. Salve professore. Grazie, buongiorno a voi. Salve, lei fra l'altro ha un'esperienza, l'abbiamo scoperto dopo che l'abbiamo invitato, in quanto docente all'Università di Brescia, proprio sui temi del bilancio sociale. Lei ha un'esperienza diretta su Bologna e collaborate anche con l'associazione industriale. Prima di coinvolgere rapidamente per una scheda che ci serve a introdurre il taglio che vogliamo dare al suo intervento. Il valore di un'impresa si può quantificare come la somma di questi quattro livelli: quello monetario, che comprende il profitto e l'aspetto finanziario, la ricchezza generata a vantaggio di tutti i portatori di interessi, il valore sociale, ambientale e tecnologico generato per gli stessi, lo sviluppo delle competenze e del capitale intellettuale, dell'immagine e della reputazione. L'unico strumento che può esaminare i livelli successivi al primo, al valore monetario, cioè, è proprio il bilancio sociale, che è perciò l'unico strumento in grado di analizzare, misurare e valutare la qualità sociale dell'impresa. Non abbiamo molto tempo, quindi andiamo direttamente al sodo, recuperiamo l'argomento da cui siamo partiti con il Presidente Paladini. Il bilancio sociale di impresa non è una velleità di comunicazione di un'impresa, può diventare la strada maestra da seguire per una vera e propria rivoluzione del sistema economico di un paese come l'Italia, che è basato molto sulle piccole imprese. Sì, senza ombra di dubbio, soprattutto perché non è un documento ma è un processo, e quindi permette di indagare, di farsi un'analisi e di interrogarsi su tutta una serie di problemi, sia all'interno, quindi nei confronti di quelli che vengono definiti gli stakeholder interni, sia nei confronti dell'esterno, dai clienti, alla pubblica amministrazione e alle altre strutture di riferimento competitivo. Quindi sicuramente, se affrontato in modo serio e non secondo le logiche di marketing, diventa un ottimo strumento di riflessione, di introspezione e anche di azione. Ecco, un processo, dice lei, quindi in quanto tale collettivo, e non ci può essere il responsabile del bilancio sociale in un'azienda, ma tutte le componenti dell'azienda sono coinvolte nel strutturare. Diciamo che il responsabile è una specie di facilitatore, un coordinatore, colui il quale ha la responsabilità di governo del processo. È sempre importante avere delle persone che si fanno carico di responsabilità, però non può esserci un'unica persona che predispone il documento e prepara le carte, come si dice. È un'azione che coinvolge, che quindi costringe anche a numerosi confronti. Ecco, mi chiedevo che cosa manca al bilancio sociale. I bilanci servono ad un'azienda per la relazione col mondo delle banche piuttosto che per rendicontare i soci. Cioè, un bilancio sociale, che cosa manca a un bilancio sociale per poter aspirare un domani ad essere l'unico vero strumento che rappresenta la dinamica di un'impresa? Ma guardi, in realtà alcune imprese italiane anche importanti, anche quotate, hanno già fatto un passo avanti e presentano un bilancio integrato, quindi un bilancio che integra le informazioni economico-patrimoniali, finanziarie con quelle di natura sociale. E queste informazioni vengono utilizzate dal mondo bancario perché permettono di analizzare un po' più approfonditamente tutta una serie di relazioni di potenzialità di rapporti tra le aziende e il mercato, e quindi in realtà già ora diventano uno strumento importante. In più, tornando al tema del processo, attraverso questa modalità di relazione e di interpretazione l'azienda mette in discussione delle proprie modalità di azione e quindi si orienta verso l'efficientamento, e le banche queste cose le apprezzano. Professore, grazie, la coinvolgeremo ancora perché lei vedo che ha la capacità di rendere molto semplici i concetti, e d'altronde essendo un professore non potrebbe essere così. Grazie professore, grazie, ragazzi, a presto. Presidente Paladini, Mazzolini ha aperto un bel filone, cioè questo qui del bilancio sociale, questo processo rischia di diventare davvero la colonna portante. D'altronde fra un'impresa e l'altra non ci può essere solo una differenza di numeri come tutto sommato sembrerebbe essere oggi. È assolutamente corretto, devo dire che il sasso lanciato nello stagno dal professor Mazzolini apre la conversazione a molteplici punti di vista e a spunti interessanti. Noi devo dire che nel nostro documento abbiamo colto un aspetto, che è quello del capitalismo di persone e del capitalismo di relazione, vale a dire il fatto che le imprese nel loro interagire, mi riferisco in particolar modo alla filiera, soprattutto le piccole imprese, la reputazione, i valori dell'imprenditore sono un tutt'uno con l'impresa stessa, e questa è una caratteristica tipica delle piccole imprese che bisogna far emergere. E fra l'altro voglio dire, essendo noi il paese delle piccole e medie imprese, è un bel patrimonio da valorizzare. Presidente, la devo interrompere perché il tempo purtroppo non ce n'è più. La ringrazio, e la ringrazio anche per l'iniziativa, perché online, per quanto possa essere, ma un bilancio sociale per le piccole imprese è un bel fronte che lei ha aperto. Alla prossima, grazie Presidente. Ringrazio tutti gli spettatori. Grazie anche ad Anita Panizza in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che Ferribot ed Enzo Argante li potete riascoltare sul sito di Radio 24.it.